Sì. Buonasera. Sera. Buonasera. Sera. Sera. Ho messo... Oh, che bello! Allora, nato a Teno, tra Porta. Chi prendi? Piedi Castello. 4327. Ho sempre lavorato a 6 anni. Che ne va a scuola? A 6 anni ne va a scuola. Si finiva le onde della scuola allora. E dopo ne va a portare che di Nara zio, campagna. Com'era Tenno? Prima non era neanche la piazza, metà. La strada di là non c'era neanche quella. L'ha fatta dopo del 35. E cosa c'era allora? Campagna, tutti i signori brunati, feudatari. E così l'era. Però prima che erano i miei vecchi, cioè la mamma mia era Bettoni, no? Ma erano qui da 780 a 800, insomma, è così. Perché anche il castello era suo. Però non c'era la strada, perché erano contadini, e era stato tutto intorno al castello, e il castello invece era via così la gente da Milano, insomma. Dopo gli hanno rompato questi chi brunati. Prima non c'era neanche la strada, c'era la pontera che andava su, dove le arche adesso, ecco, non c'era le arche, no, era tutto pieno. E era il ponte davanti al cancello. Abitevo lì proprio, a piedi del castello. Tutto intorno era di miei nonni. No, allora che dico, che mia mamma non conosce né la mamma né il papà. Mia mamma è stata allevata da una donna estra. Suo papà si è bruciato, lui aveva la malattia delle donne. Archibus, vinibus, bonibus, ontibus, carontanibus, hotel du lac. Queste le parole che mi diceva mio zio Bettoni, che è morto dell'80, del 48. Ma cosa vorrebbero dire quelle parole che hai detto? Archibus, le arco. Vino, hai capito? Sì. Buono. Poi prendeva come si dice, il birocce, la carrozza col cavallo e andava all'albergo a riva, hotel du lac. Il giovedì era vacanza. Sto mio zio mi diceva, domani c'è barca per Torbole. Cosa voleva dire? Andare in montagna insieme a lui. Alle 6 la mattina, 5 e mezzo, alle 6 la mattina, che era con le stelle. A me mi piaceva andare in montagna. Lui tagliava la legna nel prato, mi faceva i fascicoli così, mi le portavo avanti. Poi nel ritorno c'era il filo e le montavano giù per il filo. La sera, prima di andare a casa, se per la strada, se toleva via le fascine dal filo e se le metteva in parte, se ne va a caricarle col carro la fine della settimana. Che rapporti avete avuto con Riva del Garda, qui a Tenno? Ah, poco. Non era altro che andare col carro a fare la spesa. Perché la nonna questa faceva la spesa con l'asino, perché non c'era neanche la strada. Poi l'ho fatta io con la storia, col bue. Sarando nascondeva i soldi, la parona che andava a croppare la roba al porto di Riva, qui sotto le veste, perché le porteva le veste fino alle caviglie. E la borsa, con i ferri così, la tacchiva qui sotto, qui. E col carro, fino a Riva, al porto, 37, 38, 13, 14 anni, a se poteva girare per Riva anche col carro, allora non erano mia tante macchine, no. Cosa ha fatto nella vita di lavoro? Prima a scuola, il contadino, l'autista, l'operaio in cartera, comune 30 anni a seppellire morti. Dopo che a casa sì, le bue, le capre, conigli, se mi arrivai anche a 400 conigli. 40 galline che in una notte una bestia ha fatto piazza pulita. Se voi non la conoscete, la faina? Mai, la faina sì. Io la conosco. Sai? Cos'è? È un animale, è tipo l'aquila. Lei è bellissima però da vedere, morta, una specie di gatto. No, è tipo una specie di scoiattolo bianco. No, lei è nera, è lunga. Specie di volpe, però più piccola. Più piccola. Sì. Ecco la vita. È stata qui che fiva? Ne va a servire messa, perché la festa del pomeriggio e ne pagava il prete. E ne va a giocare al mago, la domenica pomeriggio. Sa che l'ha il mago? Allora, un sasso così, alto così, si metteva sui centesimi e con la piastra di sasso si giocava. Chi prendeva il mago andava vicino a quel centesimo, era suo. Ma perché è qualcuno che piace andare in montagna di questi, neanche uno. A me piace andare in montagna. Sì? Sì. Si partiva il sabato a piedi, mm-hmm, e si arriva al rifugio Pernici alle mezzanotte. Passava il pranzo, ai campi si fermava, perché suonava, si baleva. E dopo mezzanotte si andava su piano piano. Quando si arriva su, non era neanche il telefono, no. Fuoco, pasta asciutta, e alle 3 la mattina, alle 4 si partiva un'altra volta, si è fatto il giro delle montagne. E c'erano altri bambini? No, no, bambini no. 16-17 anni, ecco. Allora fa 40 volte che dico mio. Ma che musica si suonava? Valzer, la polca e il valzer lento. E quindi che strumenti si suonava? Fisarmonica. Era chi uno mi ha scritto che l'è morto adesso, le anni, era lo spettacolo con la fisarmonica. E non se ne va mica, arrivano, se ne va dentro per le stalle, dentro per le aeree a ballare. E sai cosa si scrive? Polenta e mortadella e vin. Era così allora, cara. A che ora si andava a dormire? Allora non si conteva mai. Le 2, le 3, le 4, alle 7 se le aveva via. A scuola, a dormire anche sotto la pianta, eh? In estate, ma... Qui chi andava in montagna a tagliare l'erba, e mi andava a ballare al lago di Tenno, a seva lì zaino parte, mi cambiava quando a mezzanotte che finiva di suonare, metteva i scarponi, il zaino spalla, scarpe dalle feste, i pantaloni, la camicia e poi su. Metteva la coperta lì per terra e dormiva. Qui che passava la mattina, ero obbligato a passare da lì, vedevano una peana di pepe che era ora di levare. La sveglia. Non era nient'altro, no. E il mago che dico che era il divertimento che si faceva la festa dopo di snare. Dopo non era mica da andare la sera, si poteva andare, arrivare lì finito che l'albergo e stare attenti perché erano più anziani che te. Non voleva mica sentire le balle, no. Del ritorno le facce ciappare qualche sassata. Se si accompagnava qualche ragazza era facile sentirsi qualche fifulà sopra le teste. Com'erano le strade? Oddio mio! Salciato, che si partiva da qui col bue e con la slitta, se ne va a San Pietro, si caricava la legna sulla slitta e si arrivava qui con la slitta, legna, non era salciato. Dopo io cominciavo a fare salciato. Era sassi tondi così, sassi, no? Dopo del 54 io cominciavo a fare l'acquedotto. Allora cominciamo a mettere i cubetti, una bella, sta bene, ben puliti, ma però tirli. Si partiva qui e se ne va a tagliare l'erba a mano, no? Poi era da restellarlo, mucchiarlo, metterlo nelle reti, metterlo sulla slitta e portarlo al fil, e poi sopra il fil. Un de sopra e un de sotto che scarica e può portarlo a casa. Gira a cara, parli fuori, metti sulle spalle e su di notte. E fino dopo dove veniva portato? Sul fienile? Sopra. Ah, non dico niente, è meglio chi studia sì, ma bisogna che impara anche quel che è la terra. Se te è veramente di lavorare la terra, se va avanti così, dai gli ossi al piede delle case.